Ed eccoci nuovamente in diretta dopo lo spazio dedicato al GR di Radio Popolare. Ricordo che la rassegna stampa poi di approfondimento di Radio Città Fujiko sarà dalle 9:30. Questo è il martedì imprevedibile, 12 marzo, una manciata di giorni dalla primavera 2024. Il martedì imprevedibile prevede anche lo spazio altri suoni con musiche inconsuete. Ho avuto l'onore e la fortuna di ascoltare un concerto che ha anticipato e posticipato la mia selezione musicale al binario 69. Ho ritrovato Glauco Benedetti, conosciuto al Torrione, in questo caso per una presentazione di un lavoro di insieme. Il nome è un po' particolare, lo faremo dire al nostro protagonista mattiniero, che ringrazio per la disponibilità. Buongiorno Glauco e benvenuto su Radio Città Fujiko. Buongiorno William, grazie dell'invito. Grazie a te per la levataccia. So che gli artisti, insomma musicisti, non è che abbiano così una propensione, ma tu smentisci questo stereotipo con grande precisione. Allora, il titolo del lavoro, seppur scritto in maniera un po' esotica, è Pane alle Oche, e il titolo del progetto, per meglio dire. Ci tieni molto, per quanto riguarda questo lavoro che porti in quartetto, alla presentazione anche giustamente di chi ha collaborato e di un lavoro di insieme. Allora, iniziamo presentando i membri di questo lavoro. A te la parola, Glauco. Sì, allora, Pane alle Oche è un quartetto ed è, diciamo, ha un carattere collettivo. E, oltre a me c'è Jacopo Giacomoni, Tobia Bondesan e Francesco Cigana. E diciamo che il nome nasconde chiaramente un gioco di parole così giocoso, e poi Pane alle Oche è scritto con una, anziché la O quella scandinava, quindi la A con il cerchietto sopra, per capirsi. Sì, in maniera esotica, come ho anticipato. In maniera esotica rimanda, diciamo, a così, a un immaginario così un po' nordico, però diciamo che dietro c'è proprio Pane alle Oche, quindi lo starnazzare di noi che suoniamo fiati e percussioni e quindi diciamo che ci divertiamo anche così a incontrare dei suoni un po', sì, diciamo della natura, nel senso che ci piace un po', si vive di suggestioni, ecco, come dire, e anche sui titoli dei brani, su il nome stesso del gruppo e anche del disco, che si chiama Vane. O anche Vane, come sì, infatti, vanità. E ogni tanto lo leggo anche come Vane quando la vostra bellissima copertina, l'edizione Fonte Rossa, come ho detto, una copertina molto particolare con questa maschera che ci porta ad un'arcaicità, non un aspetto primitivo ma primario, un insieme, un incontro tra quello che può essere un'avanguardia che flirta con una sorta di motilità futurista e un riportare agli albori in maniera arcaica di quello che è il suono. Tutto ciò riportato con improvvisazione a tratti collettiva, ma sempre misurata in una passeggiata che accompagna poi l'ascolto in parti più leggibili che l'ascoltatore attento sa cogliere grazie appunto alle sonorità del collettivo appena presentato da Glauco. Io ho avuto queste emozioni nell'ascoltarvi. Sì, condivido pienamente ogni parola e sottoscrivo. E volevo aggiungere che la copertina è ad opera di Marta Viviani, che è un'artista che qua ringrazio e ringraziamo. E sì, allora, diciamo che il disco è essenzialmente una, come dire, un flusso di coscienze che è unico nel senso tutto di un pezzo, nel senso che l'abbiamo registrato in presa diretta e dura circa 50 minuti, insomma. E diciamo che l'improvvisazione la fa da padrona. Poi ci sono dei materiali che noi usiamo per dare, come dire, una narrazione, per darci una narrazione, anche quella, diciamo, estemporanea, nel senso che poi ci sono dei passaggi che sono obbligati, ma anche no, cioè, nel senso, come dire, utilizziamo dei materiali molto semplici dal sapore, diciamo, un po' evocativo, nel senso che poi c'è qua e là del tono epico, dai, si può giocare a indovinare, ah, questo rimanda a questo e questo rimanda a quell'altro. Sì. Sì, diciamo che poi è stato il gioco del weekend. È stato il gioco del weekend, perché me lo sono goduto nel weekend appena trascorso, a tratti Art Ensemble of Chicago, a tratti perché un noise misurato, ma nello stesso tempo di intensità forte, l'originalità della proposta e del dialogo tra i fiati, l'aspetto percussivo che rimanda alla natura primordiale. Beh, un bel Beaches Brew riportato ai giorni nostri, con un tentativo quanto mai azzeccato di dare originalità e ricerca. Anch'io sottoscrivo quello che hai detto, il gioco a riconoscere, ed è veramente molto bello in questo lavoro. Vane o vene, sì, insomma, ecco. Scusa, ti ho interrotto. No, figurati. Come dire, diciamo che non ci poniamo limiti su quello che sono le cose che ci piacciono, e che quindi possiamo, come dire, proporci l'un l'altro, e questo, insomma, è una cosa che ci piace della musica, insomma, no? Il fatto di prenderla un po' a 360 gradi. Certo. E poi chiaramente l'estrazione un po' comune, che rimanda sì al jazz, alla musica improvvisata, fa sì che poi ci siano dei punti di incontro ben riconoscibili, e da qui magari un'identità comune, ecco, del quartetto. E tra l'altro, tu, precisiamo anche una specificità, tu sei tubista, questo strumento così particolare. Come ti sei avvicinato? Domanda così che esce un po' dagli schemi. Questa è una domanda già sentita. Immagino, scusa. Allora, io ho cominciato a suonare nella banda del paese da ragazzino, e insomma, la logica della banda, no, non sempre, però insomma nel mio caso è stato così, è tipo: che strumenti servono? Allora il maestro della banda dice, giustamente, ecco, indirizza il ragazzino verso quello che occorre all'organico, e quindi la tuba, ma devo dire che poi è stata una non scelta, ecco, poi alla fine, che però però dove ti trovi benissimo, quello te lo posso confermare, alla fine, almeno per la tua espressione, per il suono, per la ricerca, la particolarità. Troppo gentile. Allora, noi ci siamo conosciuti al Tower Jazz Composer Orchestra, tra l'altro, o almeno visto che è anche questo un collettivo che seguiamo, più esteso se vogliamo, ma allo stesso modo con una ricerca molto singolare. Abbiamo dei progetti futuri, oppure per adesso siamo impegnati in più fronti? Cosa sta succedendo, Glauco? Sì, allora, per quel che mi riguarda, sì, molti fronti, quindi vabbè, molti gruppi, insomma, con cui personalmente collaboro. Per quel che riguarda Panalleò, che abbiamo in programma un concerto che è nell'ambito di del Fonte Rossa, dei Fonte Rossa Records, l'etichetta con la quale è uscito il nostro lavoro, che fa capo a Silvia Bolognesi, e suoneremo il 21 aprile, per chi fosse nei paraggi, a Pisa, al Teatro Sant'Andrea, nell'occasione appunto di questo Fonte Rossa Day, dove vari gruppi che fanno riferimento all'etichetta si esibiranno. E ecco, quindi questo speriamo è l'imminente, insomma, è l'imminente progetto per portare Pane alle Oche e dare una continuità a queste particolari suoni. Vane o Vene, il titolo, la copertina è meravigliosa, con questa maschera che anche visivamente a me ha ricordato, se vogliamo, degli Art Ensemble of Chicago scandinavi, ecco, ho voluto dare una specificità ancora più particolare. Io ti ringrazio tantissimo per la presentazione in ambito di altri suoni del Breakfast Club. Il brano è Holy Centipede of Fire, come abbiamo detto, e anche i titoli sono molto particolari, ne vedo diversi, Forbidden Forest e tanti altri. Io ne consiglio assolutamente l'ascolto se volete incuriosirvi ulteriormente e giocare, perché no, al trovare i fiori più colorati e più intensi all'interno di questo caos ordinato riportato dalla formazione che vede Jacopo Giacomoni al contralto, Tobia Bondesana al tenore e al soprano, Glauco Benedetti tuba, trombone e susafono, e Francesco Cigana alle percussioni. Io ti ringrazio tanto, Glauco, e ti auguro buona giornata. Grazie ancora, buona giornata a tutti. Ciao. questo aspetto tribale ed evocativo, con una costruzione sempre in crescita, la ritmica che a un certo punto riceve e dona un punto di lettura più ordinata. Beh, insomma, è un lavoro che mi ha, per così dire, incuriosito, ed è un lavoro che all'interno di altri suoni con musiche inconsuete del Breakfast Club, tendenzialmente il martedì, ci porta una colonna sonora diversamente normale. A tra poco con il Mood Groove, vi lascio con questo sacro centipede di fuoco e poi ci ritroviamo con l'imprevedibile, appunto, martedì di Radio Città Fujiko. We'll be right back.